Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. I lavori di domani, di Anna Marino. Oggi vogliamo scoprire proprio tutto sull'esperto delle interfacce utenti, User Interface Designer. Lo User Interface Design comprende infatti aspetti come il web design, la progettazione visiva e dell'integrazione, lo studio dei colori, l'architettura delle informazioni, la comunicazione. La missione di questo designer è essenzialmente progettare un percorso di navigazione semplice, coerente e intuitivo. Insomma, farci usare meglio internet e tutti i siti che noi vogliamo frequentare. Mentre lo User Experience Design studia e progetta a 360 gradi l'esperienza dell'utente, lo User Interface Design si focalizza sulla traduzione della strategia in interfaccia grafica, quella che vediamo, per consentire un'efficace fruizione da parte degli utenti. E noi, come sempre, come per ogni puntata del Lavoro di Domani, sul sito di Radio 24, alla pagina programma, vicino al podcast e alla descrizione di questo lavoro, segnaleremo subito app, siti utili e link su cui cliccare per avere le informazioni e la formazione e, perché no, dritte sull'opportunità per questa figura, grazie a Gaia Zuccaro, User Interface Designer. Sentiamo da lei in che cosa consiste il suo lavoro. Allora, il mio lavoro banalmente consiste nel progettare proprio visivamente le interfacce dei prodotti digitali con cui oggi ci relazioniamo. La faccio proprio semplice: quando andiamo sul sito di booking.com, su un sito di Airbnb, su Facebook, su qualsiasi, diciamo, piattaforma digitale che oggi ci consente di fare delle di interagire con le macchine, ecco, dietro, oltre a tante altre professionalità, c'è anche lo User Interface Designer, cioè colui che progetta proprio l'esperienza visiva di chi usufruisce di un prodotto digitale. Ovviamente, per portare avanti queste idee bisogna avere un background, parliamo di un inglese, cioè una formazione alle spalle che deve essere ben solida. Dove ti sei formata tu? Io mi sono formata in una scuola di comunicazione grafica, si chiama Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie, si trova a Roma, e ce ne sono, diciamo, altre molto molto simili, ce ne sono diverse, ma ecco, quello che bisogna dire è che per quanto riguarda la formazione di questa professione, in realtà consta di due step, perché c'è una prima macro formazione legata proprio a conoscere le basi della progettazione visiva. Quindi, no, teoria del colore, teoria degli spazi, gerarchie, tipografie, insomma tutto quello che c'è da sapere per progettare qualcosa visivamente. Poi c'è un secondo step invece di formazione che è legato a come prendere tutte queste informazioni che abbiamo sulla progettazione visiva e trasporle nel mondo della funzionalità digitale. E lì ha ancora un altro step, in un altro step di formazione. Ecco, io devo dire che siccome sono, diciamo, un po' grande, ho 40 anni, quando ho iniziato il mio percorso c'erano solo scuole che formavano nell'ambito della comunicazione visiva e del graphic design, non c'era ancora questa professionalità qui, quindi quella dello user interface design, e quindi il mio secondo step di formazione in realtà l'ho fatto in maniera totalmente autonoma. È importante perché vuol dire che tu ti sei formata e c'è anche spazio per fare quello che si chiama il reskilling, cioè aggiornarsi e portarsi con una certa base verso un altro tipo di mestiere o un mestiere simile. Quindi questo è molto importante. La formazione è fatta un po' a Lego, si possono poi aggiungere dei blocchi in seguito. Qual è la forchetta di guadagno per il tuo lavoro anche a seconda della seniority? La forchetta, diciamo, è abbastanza ampia. Diciamo che un mid level può partire, diciamo, sempre in termini lordi, dai 25.000 ai 35.000 euro lordi, un senior va dai 35, può arrivare ai 70.000 euro lordi l'anno. Questo in Italia, chiaramente. Quali percorsi consigli per la formazione della tua figura, appunto? Quando io ho iniziato 20 anni fa non c'erano tante strade. Oggi invece, siccome appunto si è presa consapevolezza della necessità di questo ruolo professionale, sono nate diverse scuole, e quindi io consiglierei come percorso di fare prima una scuola di formazione appunto di design e poi specializzarsi con una scuola di UI design. Ci sono diversi corsi, uno tra quelli ovviamente che consiglio è quello di Talent Garden, di cui io sono coordinatrice scientifica, ma ci sono anche altre, diciamo, c'è il Politecnico di Milano, ci sono anche diversi corsi online che sono molto molto validi. Benissimo, un sacco di informazioni ed è ora di prendere appunti. Li troverete, lo dico a chi ci ascolta, anche sul sito nell'introduzione al podcast. Riassumiamo, prendete carta e penna, i vostri device e via con gli appunti. Quali indicazioni di app, siti per formarsi, informarsi e per la ricerca del lavoro? Per la ricerca del lavoro direi LinkedIn, ma anche consiglio Krebs, quindi CREBS.it, che è proprio specializzato per la ricerca del lavoro nel mondo digitale. E The District, che è un'altra bellissima piattaforma che è specializzata nell'offerta e nella richiesta di lavoro nel nostro segmento, quindi sempre nel mondo digitale, quindi anche chi sviluppa, chi disegna interfacce, chi fa ricerca con gli utenti, quindi una grandissima risorsa. Per quanto riguarda applicazioni e siti, direi senz'altro Coursera.com, che ha dei bellissimi spunti, ma anche appunto il sito di Talent Garden con il suo blog, che ha molti, diciamo, spunti anche su capire quali sono le nuove professioni. Ecco, se qualcuno oggi deve orientarsi nel mondo delle nuove professioni, come dicevamo prima, non un professionista che deve fare un upgrade, ma proprio un giovane che oggi deve cominciare un nuovo percorso e capire quali sono le opportunità, ecco, per esempio su Talent Garden ci sono diversi spunti. Ci sono anche tantissime community non male su Facebook, per esempio, che sembra uno strumento ormai desueto, ma invece in realtà ci sono delle belle community. Per esempio c'è una community che si chiama UX UI Designer Italia su Facebook, che consiglio, piena di spunti, molto molto interattiva. E navigare su internet, che ovviamente per guadagnare tempo anche per quando magari questa emergenza sanitaria sarà finita e magari si potrà tornare anche in presenza, ma il digitale ormai è stato accelerato e c'è ovviamente in questo momento una sete, una fame di digitale che porta tutte queste professioni verso il futuro, verso il lavoro di domani, non solo verso il lavoro di oggi. Che tipo di sviluppo vedi per questa figura, per il futuro della tua figura? Uno sviluppo incrementale, perché per quanto a noi sembra che la realtà sia così pervasa dalla tecnologia e dal digitale, ancora c'è un grande gap nel nostro paese, ma insomma ovunque, quindi credo che ci sarà ancora tanto bisogno della nostra figura in maniera standard, quindi proprio progettazione classica delle interfacce nei prossimi 10 anni in modo proprio, io direi, tranquillo. Ma poi ci sarà un'evoluzione, cioè capire che chi progetta interfacce non progetta solo cose che si vedono realmente. Immaginiamo per esempio oggi tutto l'uso che si fa degli assistenti vocali, dove comunque noi interagiamo con un prodotto ma attraverso la voce, non attraverso un disegno, no? E anche questa è l'evoluzione di chi fa user interface design, perché non progettiamo solo cose che hanno a che fare con la vista, ma progettiamo proprio esperienze di interazione. E quindi il nostro futuro è in evoluzione e sicuramente se non faremo, diciamo, la stessa cosa che facciamo oggi, ne faremo altre comunque con un unico obiettivo certo, quello di aiutare l'utente ad orientarsi nel rapporto con la tecnologia. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.